ortiche mimose, fra ortiche mimose. This is MC Wo on a new track. Alright, MS is ready to start. E cerco ancora a terra tutte le rotelle, nella confusione vagabonda fra le stelle. Un'amicizia, perché vivere è fatica senza almeno un'illusione nell'indifferenza. Quando manca l'invenzione sto cercando nelle stanze più nascoste i miei diamanti. Non può piovere per sempre, sto pregando senza vergognarmi, ma nel posto più sbagliato, inginocchiato fra le calze nere, uno svuotarsi d'anima. Parlo con il primo che mi capita davanti ad un bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, fumo lacrime, rottami, volto pagina. E fra mezz'ora è già domani, ma un poeta intaglia ancora un'altra pietra nella nebbia con la cetra. Si sente parte della notte, delle sue creature, del barlume di un lampione, delle sue nature. E a volte veste incappucciato nel profumo di un sassofono che suona cento lune. No, non resterò. Alter ego non ha epilogo, bandito dal silenzio, smarrito nell'effimero. Se navigo battaglie nell'interno, se gironzolo non sento più l'inferno. Altro capitolo, disinfestano i miei passi, vivo come i mendicanti, tiro sassi, gioco ancora a questo tavolo. I miei assi ti ho parlato nelle orecchie, nel drive-in sulla tua pelle, come un folle con un flauto dentro un vaso di Pandora. Sono il cobra, sono in coma come quella nota grigia che mi stona quando pigia la mia gloria, la mia uve come aceto. Mi mette alla prova la sterpaglia, perdo ancora un'altra volta l'amuleto. Profeta del mio vivere, se mangio le parole l'alfabeto spinge avanti. Oltre le mie suole mi sublima sotto vuoto emozionale, adrenalina come pane, come lo stenofilo. Ritorno a casa, intreccio le mie trame, sparisco all'improvviso, non ti chiedere il perché. Se sto bene anche da solo faccio esami di coscienza costruendo la mia diga, come quel castoro con pazienza nella vita. Io vivo fra ortiche mimose, mimose, mimose, come quel castoro con pazienza nella vita, nella vita, nella vita, nella vita, nella vita, nella vita, nel profumo di un sassofono che suona cento lune. No, non resterò. Io sono un uomo soddisfatto di sé.